la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16:30 primi e 32 secondi, in diretta qui dalla piovosa Milano, e per fortuna sono riuscito ad arrivare perché era bloccata anche la metro rossa. Ma comunque Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio dell'ascolto come sempre, in diretta o in podcast. E 800 24 00 24, il numero per intervenire, 349 238 6666, per darci le vostre opinioni con gli sms, l'indirizzo, la versione di Oscar, chiocciola24.it. La trasmissione è dedicata, era dedicata fino a tre quarti d'ora fa e resta dedicata in particolare alla vicenda del contratto agli statali, perché sapete, l'avete trovato sul giornale di oggi, l'avete visto ai tre giornali, è arrivata ieri la proposta della cifra indicata dal governo come aumento medio per il rinnovo contrattuale. Vi ricordo che dai tempi del governo Berlusconi è stato bloccato nel settore pubblico italiano l'aumento dei contratti e il rinnovo dei contratti nel settore pubblico, quasi 3.200.000 dipendenti, insieme al blocco del turnover, cioè alla sostituzione di chi va in pensione per una percentuale non superiore al 25%, queste due misure hanno operato un blocco in termini reali, quindi una diminuzione in termini reali rispetto al progressivo aumento della spesa in questi anni, del resto della spesa pubblica, e quella invece in termini reali prima si è bloccata, poi si è diminuita. Ieri il ministro Madia ha indicato questi 85 euro come aumento medio per il rinnovo del contratto dopo tanti anni al pubblico impiego, e il problema è quindi vedere adesso questi 85 euro, che significa zero recupero del pregresso, per essere chiari, e alcuni problemi in alcuni settori come la scuola e così via, qual era la valutazione. Quindi intanto, se siete dipendenti pubblici, chiamateci all'800 24 00 24, dateci la vostra opinione. Nel frattempo, 40 minuti fa è uscita, sempre sul comparto della pubblica amministrazione, una novità di un certo rilievo. Perché che cosa è avvenuto? Che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di 4 articoli della riforma Madia sulla pubblica amministrazione, nella parte in cui si prevede che i decreti attuativi siano assunti, nel testo c'era scritto, con un parere della conferenza unificata Stato-Regioni, e la Corte Costituzionale dice no, ai sensi della Costituzione vigente, voi avete bisogno dell'intesa piena con le regioni, nella conferenza unificata Stato-Regioni. In altre parole, è come se la Corte Costituzionale dicesse al governo, poiché la riforma Madia, lo ricordiamo, unifica i ruoli, per esempio, della dirigenza pubblica tra centrali e quelli delle autonomie, ebbene la questione non può essere risolta solo dallo Stato con un mero parere delle regioni. Poiché nei contratti le aree contrattuali sono molto diminuite e sono state accorpate, e anche in quel caso quindi c'è un'area che riguarda tutti i dipendenti delle autonomie, allora anche per questa ragione a Costituzione vigente, caro governo, quella norma non va bene che hai scritto nella riforma Madia in relazione ai decreti attuativi, perché i decreti attuativi dovranno avere la piena intesa delle regioni. A pochi giorni dal referendum, capite bene che è una questione centrale, non solo perché la riforma della pubblica amministrazione comunque è una gamba fondamentale, se non si fa bene quella non si attua nessuna riforma vera nel nostro paese, ma perché è un richiamo al governo, come ripeto, se avesse scritto la norma pensando che c'era già il nuovo testo della Costituzione vigente che opera riaccorpamenti, come saprete, in nuove aree. Quindi io intanto vi presento gli ospiti, perché facciamo una prima parte con una breve opinione su questa sentenza della Corte Costituzionale, che domani troverete ampiamente illustrata su tutti i giornali, tra gli articoli dichiarati legittimi, in questi 4 articoli bocciati dalla Corte ce n'è uno appunto che riguarda la riforma della dirigenza pubblica, e la riforma della dirigenza pubblica aveva avuto il decreto attuativo approvato proprio ieri dal Consiglio dei Ministri dopo i rilievi significativi che erano venuti dal Consiglio di Stato. Quindi una questione che diventa ancora più spinosa, perché sulla questione della dirigenza il governo si era ripronunciato ieri, e anche in quel caso non aveva raggiunto nessuna intesa preventiva con le regioni. A questo punto la Corte Costituzionale ha fatto un passo indietro e si è pronunciata in generale, quindi sugli articoli in generale della legge delega, senza entrare in ciascun specifico decreto legislativo fino a questo momento. Quindi bisognerà vedere, dopo questa sentenza, quando ne conosceremo meglio il dispositivo e poi le ragioni, se e quali altri decreti legislativi nel frattempo approvati incorrono nella decisione assunta dalla Corte. E quindi cominciamo, io vi presento subito i nostri due ospiti, perché intanto sulla questione del rinnovo contrattuale eccetera eccetera avevamo chiamato, e confermo qui con noi, lo ringrazio, il segretario confederale della UIL Guglielmo Loi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buon ascolto. Su questa questione nuova, determinatasi 40 minuti fa, ho acchiappato al volo e lo ringrazio, perché nessun presidente di regione ovviamente ha commentato, si era pronto a commentare, il professore di diritto costituzionale all'Università di Padova, Luca Antonini, che è stato presidente a lungo della commissione tecnica sul federalismo fiscale. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Che impressione le fa questa sentenza della Corte Costituzionale, di cui abbiamo appreso i tratti solo molto generali mezz'ora fa, professore? Ma guardi, ero io che difendevo la Regione Veneto, quindi è stata una mia difesa in Corte Costituzionale. Quindi ne sa. E devo dire che è una sentenza importantissima e storica. Guardi, lei, Oscar, ha la lucidità per capire, ma le faccio questo esempio. La centralizzazione dei dirigenti delle ASL. Cioè, per cui la Regione Veneto non avrebbe più potuto scegliere autonomamente i dirigenti delle sue aziende sanitarie, ma ne avrebbe imposti una commissione da Roma. Ora, il modello Veneto è primo nel mondo per qualità, insieme a quello della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, quindi funziona benissimo. Se vai a centralizzare la nomina dei dirigenti delle ASL e magari imponi al presidente della Regione una rosa in cui lui deve scegliere, che è di tre nomi, e metti tre nomi che vengono da regioni altamente inefficienti, tu hai distrutto quel modello, lo disintegri, e non c'è nessuna ragione di centralizzare un modello che funziona. Fosse inefficiente lo capirei, ma se una delle poche eccellenze mondiali in cui l'Italia è ai massimi vertici nelle classifiche internazionali, centralizzare vuol dire distruggerlo. Ricordo che c'era una regione nel 2009 che neanche teneva la contabilità, tutta la contabilità era inattendibile, la Calabria, e si dovette nominare KPMG per ricostruirla, che non ci riuscì. Allora, che se mandano tre dirigenti delle ASL di quel tipo in Veneto, che è un modello particolarissimo perché è diversissimo da quello emiliano, e questo è il loro punto di forza, proprio la diversità, quindi mandi gente che non lo conosce, lo distruggi. Allora, a questo punto di vista la sentenza della Corte è importantissima, perché dice: non puoi fare un parere, che tra l'altro era da dare in 30 giorni superabile unilateralmente dal governo, ma devi ascoltare le ragioni delle regioni, soprattutto anche delle regioni efficienti, che ti possono dire: ma guarda, è un modello particolare, se mi mandi tre che non lo conoscono, ti strasci. E io in corte ho anche detto, quando ho difeso la regione, che non ha neanche senso dire che quelli del Veneto li mandi in altre regioni inefficienti, perché in certe regioni ha funzionato solo, per esempio in Campania, quando ci hanno mandato un generale dei carabinieri. Purtroppo sì. Così. Allora, questa riforma, da questo punto di vista, Veneto non ha contestato la riforma della pubblica amministrazione, che è una cosa fondamentale, ma il fatto che fosse altamente inefficiente e contraria al principio di buon andamento, cioè distruggeva questa riforma anziché migliorare la situazione. Tenga conto che la riforma Madia erano 24 pagine di gazzetta ufficiale di principi fondamentali. Sì. E quindi è una riforma complicatissima, contorta e sbagliata. Questa sentenza è molto importante, perché adesso io credo che il governo sia fuori termine, non riesce più a fare l'intesa. Quindi i decreti che sono stati emanati, come quello sulla dirigenza anche sanitaria che è in vigore, il governo non ha più il tempo di delega per poterli rettificare. Quanti altri secondo lei? Ma tutti quelli sulla dirigenza, secondo me, sono a rischio. Cioè, ormai il governo penso che sia fuori delega, e quindi quei decreti decadono. A questo punto non ha più il tempo per andare a chiedere l'intesa e modificare il decreto, perché la delega era. Ma la domanda a questo punto diventa: se domenica 4 dicembre passa la riforma dei 47 articoli, i presupposti costituzionali per cui la Corte Costituzionale si è pronunziata oggi cambiano oppure no? No, rimangono validi, però allora se il governo, se passasse, se vincesse sì e facesse la, rifacesse identico il testo della riforma Madia, potrebbe legittimarlo in base alla clausola di supremazia. Esatto. Quindi, perché a dire, punto, la verità, mi scusi, me lo dico per i nostri ascoltatori, al di là della cosa tecnica, gli ascoltatori si saranno resi conto che in questi giorni proprio gli esempi dell'omologazione dell'offerta sanitaria ricorrono spessissimo negli argomenti del governo e dei fautori del sì per dire dobbiamo dare alla parte meno efficiente della sanità italiana più efficienza. Se passa il sì, noi abbiamo la facoltà come governo centrale di poterlo fare rispetto oggi a una competenza che invece è delle regioni. Quindi è così. Dico, ma non è che la realizzi e trasformi il Veneto come la Calabria o la Campania. Quello è l'egualitarismo. Se oggi 250.000 persone vengono a farsi curare al nord, a rimborsare dal servizio sanitario nazionale, capisci? Se domani noi centralizziamo e rompiamo quei modelli, queste persone dovranno migrare al servizio sanitario a pagamento, non più rimborsate dal servizio sanitario, capisci? Perché se sparci 4 modelli, 5 modelli che funzionano, l'unica alternativa rimane la sanità privata. Quindi non faranno migrazioni sanitarie dolorose perché vengono su, ma però paga il servizio sanitario, sono rimborsate, dovranno andare a pagare tutto, capisce? Quindi credo che sia solo egualitarismo. E invece nelle regioni che non funzionano bisognerebbe fare i commissariamenti, perché l'unica cosa che funziona, solo che abbiamo visto la norma De Luca cosa ha fatto, nomina il presidente commissario con tanta fatica nel 2015 si era riusciti ad evitare. Torniamo a potenziare i poteri di chi si è dimostrato inefficiente, e questo secondo me è una logica centralizzatrice assolutamente inefficiente, cioè lo Stato invasivo là dove le cose funzionano e assente dove le cose non funzionano. Va bene, amaro commento intanto, di cui la ringrazio, e speriamo che abbia capito chi è a casa che la pronuncia della Corte è una pronuncia che potenzialmente, insomma, crea un problema molto serio, perché rifare i decreti, rifare il decreto complessivo, il decreto delegato, è complicato. Rifare i decreti legislativi si può, ma la deroga è scaduta in moltissimi casi, quindi ora vedremo nei prossimi giorni che cosa accade. Io mi auguro comunque che si trovi una strada per delle correzioni, quindi per l'intesa con le regioni, senza buttare a mare tutto ciò che era stato fatto, anche se molte cose di quello che era stato fatto non mi hanno convinto. Chi vuole trova su Leoni Blog molti miei articoli su questo. Intanto grazie al professor Antonini per questi elementi che ci ha dato. Un'ultima cosa, quante erano le regioni che avevano impugnato? Era solo il Veneto, il Veneto che ha avuto il coraggio di impugnare quella riforma, però gli dico con queste motivazioni, cioè si è contrario allo spirito, certo, della riforma, si è contrario a certe degenerazioni che contiene la riforma e che soprattutto nel loro esito porterebbero a un'involuzione, no, a una riforma migliorativa. Però incredibile, se c'era bisogno di un esempio concreto della questione dei rapporti tra Stato e autonomia, beh, la Corte Costituzionale ci ha pensato lei a renderlo concretissimo a pochi giorni oramai dalla scelta che dovranno fare gli italiani. Grazie professor Antonini, e adesso andiamo alla questione che si è aperta ieri, cioè quella dell'inizio di una cifra vera, sia pur media, rispetto ci sono o non ci sono le basi per sedersi al tavolo dei contratti e rinnovare dopo anni di blocco i contratti del pubblico impiego. Guglielmo Loi, allora, questi 85 euro medi, dal vostro punto di vista, sono un inizio, non sono neanche un inizio? Quali questioni comunque al di là degli 85 euro restano fondamentalmente aperto? Che ci dice? No, sono una buona base di trattativa, direi che è quello che abbiamo sempre chiesto, cioè ridare un minimo di fiato alla ripresa salariale, non come si dice a Roma gratis, cioè dentro un processo più ampio di compartecipazione ai processi di riforma della pubblica amministrazione, oltre i decreti di cui avete accennato prima, scritti a volte in maniera un po' estemporanea e soprattutto scoordinata rispetto ad altri percorsi, compresa la riforma costituzionale, che hanno creato più problemi che altro. Insomma, quindi le cifre sono plausibili, insomma, detto francamente. Insomma, si tratta di andare avanti. Qua non c'è il contratto, perché come sapete è un percorso più complicato, un'intesa di carattere generale, poi la contrattazione la farà l'ARAN, la faranno le amministrazioni locali, comprese le regioni stesse nello specifico. Però insomma, a noi ci sembra un bel passo avanti per una questione di concreta, ma anche per una questione di principio, che è appunto quella che senza contratto è difficile regolare meglio i rapporti dentro le amministrazioni pubbliche. In questo caso il dirigismo, come dimostrato dal non aumento dell'efficienza in assenza del contratto, è una strada che a nostro avviso non ha pagato. Detto questo, non vuol dire semplicemente dare dei soldi, significa, come dire, mettere le condizioni affinché lo scambio virtuoso tra efficienza e riconoscimento alla professionalità sia maggiormente praticabile. Senta, ma siccome arrivano già sms di dipendenti pubblici che dicono, però quindi significa accettare questa intesa generale, giustissimo che lui abbia ricordato a tutti che poi la trattativa la fa Aran nei nuovi pochi comparti della PA ed è una trattativa separata da questo principio generale di intesa sui termini economici, ma significa rinunciare, mettere una pietra sopra al recupero del passato? Ovviamente noi stiamo ponendo il problema che i 7 anni sono una marea. È anche vero che, diciamoci la verità, un po' per il quadro economico, cioè del bilancio dello Stato, dall'altra per un clima non entusiastico, diciamo, dell'opinione pubblica nei confronti dei pubblici dipendenti, a oggi quello che noi riteniamo prioritario, scusate il sindacalese, è aprire un principio, e cioè che anche nel pubblico, come nel privato, va cambiato il paradigma della contrattazione, partendo certamente dalle condizioni di lavoro delle persone, ma anche dalla questione cosiddetta della produttività. E per far questo il principio generale ci dice bisogna contrattare. Allora, su questo riprendiamo, la struttura economica ci dirà esatto, sulle metriche della produttività riprendiamo, perché adesso c'è un minuto di informazione sulle strade. Io aggiungo che questo freno obiettivo che c'è stato in questi anni, ripeto, l'unica grande voce della spesa corrente che è diminuita in termini reali, prima si è fermata e poi diminuita, è servita anche a recuperare il vantaggio oggettivo che per decenni era stato accumulato, una parte del vantaggio, però una parte non proprio trascurabile del vantaggio, che a parità di qualifica le retribuzioni pubbliche, per una diversa dinamica proprio dello Stato rispetto agli imprenditori privati, si erano parecchio avvantaggiati a parità di qualifiche rispetto al privato. Quindi io lo so che è impopolare dirlo ai dipendenti pubblici, però è un dato di fatto certificato nei numeri, e adesso quel vantaggio si è significativamente diminuito. Certo, chi ci è andato di mezzo è difficile che lo butti giù, però purtroppo queste dinamiche storiche asimmetriche rispetto alle compatibilità avviene il momento nel quale poi brutalmente, lo ammetto, perché lo stop è stata una questione di brutalità, però brutalmente poi si riallineano. Intanto traffico, poi ripartiamo dalla produttività. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. La versione di Oscar. Allora, eccoci qua in diretta, abbiamo commentato al volo dopo mezz'ora intanto la pronuncia della Corte Costituzionale, che ha bocciato 4 articoli della legge delega Madia della pubblica amministrazione, perché si prevedeva di fare i decreti attuativi senza pieno consenso con le regioni, e quindi quello sulla dirigenza, che proprio ieri è stato riapprovato dopo una bella alleggerimento rispetto ai criteri iniziali chiesto dal Consiglio di Stato, di nuovo si riblocca. E adesso stiamo commentando con Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, se ci sono i termini, dopo che il governo ha detto 85 euro di aumento medio per il nuovo contrattuale oppure no, un'intesa generale, poi si apre la contrattazione vera nei nuovi diminuiti come numero comparto del pubblico impiego, la trattativa. Due comunicazioni di servizio. Primo, molti ascoltatori mi pregano di ricordare a Guglielmo Loi che non c'è solo la questione del recupero tramite il blocco del vantaggio retributivo a parità di qualifiche, che c'era vantaggio del pubblico sul privato, ma tutti ci ricordano, o meglio, tantissimi ci ricordano, che poi resta per il settore pubblico, non allineato neanche nel Jobs Act all'omologazione del settore privato, la garanzia di non perdere il posto, e quindi questo fa agli occhi per i dipendenti privati, dice, una bella differenza. Va bene, una delle cose della nuova riforma è quella anche di procedure di mobilità che possono anche esitare. C'erano anche prima, però non è mai avvenuto praticamente nel licenziamento. Lo stesso avverrà dopo un certo numero di anni, una certa procedura complessa per i dirigenti pubblici, che rimangono però questa volta, se passa il decreto che li riguarda, con un incarico a tempo. Quindi questo è completamente diverso rispetto a prima ed è una novità sostanziale. Ma parliamo di una questione fondamentale: la produttività. Io sono un po' critico su come nella legge Madia si immaginava di proporre metriche di produttività che devono essere definite ex ante e sulle quali poi misurare ex post la produttività dei dipendenti pubblici per un premio di merito che non sia spalmato tra tutti, come è avvenuto troppe volte in Italia, perché non riesco a immaginare come il meccanismo disegnato dalla legge Madia possa davvero funzionare. Però mi interessa molto di più e ha molto più rilievo che ne pensa un sindacalista, cioè Guglielmo Loi. Lei che dice? Ma noi siamo stati critici sulla gran parte della legge Madia, per capirci. Una parte per aver costruito un impianto che le stesse mani hanno in parte demolito. Penso, come dire, non solo alla questione della sentenza della Corte che ricordavate prima, ma su altri temi, a partire dalla questione delle politiche attive lavoro. Però secondo lei sulla produttività si riesce a stabilire davvero delle metriche per comparti così disomogenei con un'indicazione centrale? Io questo non lo so. Ma certamente aver accorpato, scusi il gioco di parole, i comparti non renderà facile. Noi abbiamo segnalato ad esempio che nella stessa istituto di ricerca, che hanno una dinamica molto particolare nel parametro di produttività, perché di per sé, come dire, gli investimenti e l'analisi che porta poi a innovazione nel campo della ricerca non hanno la metrica o i tempi come analoghi, esatto. Io sono molto curioso, diciamo, perché francamente se non si stabilisce con chiarezza questo, il problema della produttività, cioè il salario di merito vero, resta nel settore pubblico una roba fenice. Quindi io su questo sono curiosissimo. Altra comunicazione di servizio: intanto Metropolitana di Milano mi prega di informare che il servizio sulla linea rossa M1 è tornato regolare, cosa che faccio volentieri, quindi non andate a intasare la circolazione su strada, la metro è tornata a funzionare. Sentiamo come la pensa su questo argomento Davide da Cuneo. Davide, prego. Sì, buonasera a tutti innanzitutto, sì. Buonasera Giannino, buonasera agli ascoltatori, sì. Io sono un dipendente pubblico, sono proprio in servizio e stavo ascoltando un attimo il vostro intervento. Sono partito subito sul discorso dell'aumento medio dell'85 euro. E lei che pensa? Ma io penso che io faccio parte della base della PM, perché sono in ASL, ma noi troviamo sempre una diseguaglianza incredibile nella ripartizione di questo aumento medio, perché con 85 euro ci sarà chi prende 120-130 euro al mese e chi invece solo 50, e non parlando poi di quello che è il comparto dirigenziale, che è veramente delle sproporzioni enormi. Ma una volta tanto di riuscire a vedere veramente chi della pubblica amministrazione fa il lavoro quotidiano Parlando, la distinzione, diciamo così, per onere e per produttività è una questione fondamentale. Io con gli accorpamenti vediamo, ma resta il grande punto interrogativo. Intanto una risposta anche a Antonio da Roma: no, i militari e le forze dell'ordine sono fuori dalle aree contrattuali, dovreste saperlo, ma comunque per chi non lo sa è così, e per questo c'è un fondo a parte del rinnovo rispetto a quelli invece della contrattazione. Comunque grazie anche a Guglielmo Loi, continuate con Radio 24, soprattutto domani dalle 10 alle 12 saremo in diretta dal forum degli agenti e con Conti della Belva, me, Carlo Alberto Caramale Maffè, Mario Seminero, Retto Cifarelli, appuntamento a domani.